Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire, che è successo? Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parezzo, non si entra nell'angolo rotture della zanzara. Parenzo merda, spagato da solo, spagato da solo, spagato da solo. Parenzo merda. Gesù Cristo mi ha detto che fino a che lo sputi in faccia Berlusconi non mori. Naturalmente. Silenzio la vecchia. Il top assoluto. Ricordiamola alla grande, 91 bravo, anni, 91 anni, la mitica Annarella. Annarella, quante trasmissioni, ragazzi, quante trasmissioni, oltre a Radio Belva, naturalmente, tante altre cose, tanti altri momenti eccezionali qui alla Zanzara. Sai che mi dispiace davvero col cuore proprio. Ma ogni volta la massacravi in onda, vabbè, quello faceva parte. No, come dire. Ma che massacravi? Non lei, no, anzi, ce la vedevo alla Ma ragazzi, ma 91 proprio... anni, ma sì, certo, 91 ma anni stava male, meglio così, no, ma stava male. Non ci arriverai neanche con la vita dissennata che fai, appunto, con le gangbang, appunto, con quel appunto. Modo che hai di comportarti moralmente, anche quel consumo del corpo che fai, quell'uso continuo di quell'oggetto che è determinante nella tua vita. Pensa a quella signora che invece, voglio dire, ha usato la sua vita per spendere, per testimoniare politicamente che cos'è l'anti-berlusconismo. Ma che dici? Questa partigiana 4.0 della contemporaneità. Io direi, anche in segno così di rispetto, di non fare la trasmissione oggi, per esempio. Ma perché? Sei impazzito? Sei... Beh, uno, perché sono a pallo e non ho e chi se ne frega? No, e quindi direi anche, ma no, perché se tu mandi un paio di questi audio e lasciamo il ricordo, direi, una giornata come questa, e anche noi facciamo un gesto forte una volta. Ma cioè, quale diciamo... gesto forte? Il gesto forte è fare la trasmissione e ricordare ogni tanto, durante queste due ore e mezzo, ricordare sempre Annarella. Per esempio, che ne so, contro... che facciamo? Contro Berlusconi, sì. Ecco, vedi, appunto. Arriva. Arriva o no, ragazzi? Eccolo. Signora Annarella, anche lei oggi qui di nuovo? Io ci sto tutti i giorni, fino a che Gesù Cristo mi ha detto che fino a che non sputi in faccia Berlusconi non mori. Allora io ho 85 anni, prima devo sputare in faccia Berlusconi e poi mi moro. E puttana, portate tutte lì, prima fa montare sul letto, ci succede zille e poi porta lì. Senti ancora. Male vada perché non so che della mignotta, perché c'avevo quella del mio marito. Sto cornudo. E oggi come la mettiamo oggi allora? Come la mettiamo? La nappa in culo. Contro la Santanchè. Senti questo, contro la Santanchè. Poi dopo c'era la Santanchè. Io ti senti, io dico un sacco di parolacce e va bene. Però il significato di quel dito che alzi te, non lo sapevo. Allora, mo che lo so, quello te lo devi mettere là dietro. E in bocca te ci metti in bercetrolo. Contro la moglie di Fede. Ma perché ce la conta? È stupendo. Ma Signora, ma suo marito non si vergogna ancora a stare in televisione? Che fa schifo! Senta, solamente signora, quando apre la bocca. Vuole che la meni? A me. Mio marito è stato... Sì, è una gran brava persona suo marito. Sì, sì, è una gran... So cadere! Ma vuole dire a questa signora che la deve piantare? Ma che ne fa? Madonna. Ma che ne fa? Cerca andatele, che siete ladri! Poi se la piglia pure con Vespa, il figlio di Mussolini. Senti. Tutte le televisioni dove c'è la politica mi fermo. Io vedo il TG3 e basta. Blob te lo vedi? E blob. Non vedo a Rai 1 perché c'è il figlio di Mussolini, se è Cosula, quello che fa porta Vespa. A porta, Vespa. Non la vedo, c'è Menzolini. Tutti i zozzoni come lui ci stanno. Tutti zozzoni come lui. Vabbè ragazzi, allora Grillo ieri sera, non mi ricordo dove, la gente ha il diritto di essere violenta se gli porti via la casa e il futuro. Vai. Mamma mia. E quando la gente gli porti via il futuro, il lavoro, la salute e la visibilità, ha tutto il diritto di essere violenta. La gente ha il diritto di essere violenta se gli porti via la casa e il futuro. Ora, letteralmente, si può anche condividere. Se uno ti porta via la casa materialmente, diciamo, ti vuole distruggere casa con il bazooka, è chiaro che tu hai il diritto a essere violento. Ma lui si riferisce a un'altra cosa. Cioè, la gente ha il diritto a ribellarsi anche violentemente. È un concetto che ogni tanto viene fuori da Grillo. Se tu, politico, tu, decisore, tu, personaggio delle istituzioni... E non facendo nulla, secondo lui, ovviamente, porti via il futuro. Questa frase che ogni tanto si ripete, cioè, se tu strappi il futuro alle persone, allora puoi reagire violentemente. Ma chi lo decide quando il futuro viene strappato, caro Grillo? Comunque, Grillo comunque ha perso qualche cosa, eh? Cioè, ci deve essere qualcosa che non torna. Morte e vita, concetti filosofici. Senti questa roba, è una supercazzola? Senti. Ma per l'amor di Dio, morte e vita cos'è? Scienza? Religione? La morte e la vita sono due concetti filosofici, sociali, né scientifici. Metà mondo muore in un modo diverso da noi. Muore quando il cuore non batte più, come morivamo noi prima del 68, prima dei trapianti, va bene? Oggi si muore perché un apparecchio giapponese, la Toshiba, fa... Sgarbi e il comandamento non desiderare la donna ad altri, qualche giorno fa, credo a Tarquinia. Non desiderare la donna ad altri, quella devo usare, io ce l'ho già, ce l'ho quella. Che cazzo di comandamento è? Tanto che se una non è da altri la puoi anche desiderare, quindi c'è una contraddizione, una donna libera la desideri, non desiderare la donna. Infatti molte volte ho scopato donne libere. Quando scopo quelle da altri mi sento un po' in colpa, ma non troppo. Matrimonio gay doppia inculata. Questa l'hanno detto. Che grande conquista civile, le unioni civili. Dico, scusa, ma perché? Dico, il matrimonio è una rottura di coglioni anche per gli eterosessuali e tu a quelli che non ce l'hanno glielo vuoi dare. Vuoi incularli due volte. Già lo prendono nel culo e gli dai anche il matrimonio. I preti si inculano tutto il giorno. La moda che ha portato ai matrimoni gay è quella per cui lo fanno in Spagna, lo fanno in Inghilterra, lo fanno in Irlanda. Noi siamo in Italia dove c'è la Chiesa. È vero che anche i preti si incularellano tutti i giorni per loro, quindi è un mondo pieno di contraddizioni. Ma non c'è bisogno di legalizzarlo. Più la cosa è nascosta, più è divertente. Ancora Sgarbi. Io e questa signora siamo liberi. Andiamo su un fiume davanti al mare. Io la bacio, lei mi bacia. Io la tocco, lei mi tocca. Io la prendo, lei mi prende. Lei è contenta, sono contento. Dove cazzo è il peccato? Sarà un peccato. Non c'è neanche un marito cornuto, quindi lei dove? Per cui lui mi guarda e dice: cosa dice? Dico no, perché I comandamenti sono belli perché ci impediscono di fare danno a qualcuno. Se non c'è nessuno che soffre di questo, lui mi guarda e mentre io così mi dice: scusa, se lei non capisce, Dio soffre, dico scusi, Dio si più di cose da fare, terremoti, vandalismi, catastrofi, bambini che muoiono, e Dio sta sulla nuvoletta a vedere me che scopo, ma che si faccia, ma che cazzo di... sarà lui a dire vorrei essere al suo posto di Sgarbi con tutta la gnocca che ho visto. Voglio dire, il prete mi ha sentito, è impallidito, dopo 4 giorni è morto. Orso Totò è malato, è anziano, deve uscire, Cruciani, pezzo di sbirro infame. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it. Vi presento La Zanzara. Io l'altro giorno avevo 2 persone in macchina, parlavate di squirting, di qua, di là, e il turpiloquio. Ma cosa cazzo vuoi? Cambia, ci sono 1000 stazioni, cambia, ascoltati Radio Padania Libera o quel cazzo che è, ascoltati Radio Maria e non cagarci il cazzo. Noi della minoranza o maggioranza silenziosa o cacciarona, chiamatela come cazzo volete, ma noi siamo quelli che vogliono tutto questo e anche di più. Miserabili! Ragazzi, ogni tanto c'è un giudice, eh? C'è un giudice da qualche parte e, come si diceva una volta, c'è un giudice a Berlino. C'è un giudice a Berlino. Te lo ricordi il nostro amico Mocavero? Il nostro amico Mocavero, sì, associazione no, 100% animalisti. Non e quel personaggio incredibile è stato anche un fascista. Cioè una sì, roba... vabbè, ma lasciamo perdere. Adesso si è convertito da qualche anno all'animalismo di quelli seri, di quelli tosti, di quelli feroci. Ha questo movimento che si chiama 100% animalisti, che si è specializzato nell'esultanza quando muore un cacciatore. E un giudice del Tribunale di Belluno ha ordinato l'imputazione coatta per avere esultato, per aver esultato e soprattutto per le frasi di odio nei confronti del cacciatore morto, per sbaglio, manco durante una battuta di caccia, ma è morto per altri motivi, tra l'altro. E per gli insulti che sono seguiti dopo la morte di questo cacciatore. Imputazione coatta. Molto bene. Vediamo se dopo risponde al telefono così, no, così ci no, dice. Risponderà perché è un coniglio, nel senso ovviamente non dell'animale, ma proprio nel senso caratteriale dell'animale, proprio un coniglio. Mocavero, rispondi! In tribunale per le tue frasi contro i cacciatori, in tribunale, Mocavero! Allora, non vorrei nemmeno trascurare quello che ci ha detto l'altro giorno il signor Piccardo, che è considerato uno dei leader giovani delle comunità islamiche italiane, il quale ha detto che gli piacerebbe avere un'Italia a maggioranza musulmana, Parenzo. Italia a maggioranza musulmana. Sì, mi ricordo, ci mi ha un po' colpito effettivamente questo. No, però ti piacerebbe o no un'Italia a maggioranza musulmana? Sì, ti piacerebbe. Ma io penso, cioè, l'Islam è un dono per me, è un regalo. Io lo farei a te, lo farei a Parenzo, ma lo farei per a tutti. Carità di Dio. Ma tu lo vuoi ricevere questo regalo, grazie. Non mi interessa. Io lo farei, poi se lo volete ricevere. Certo, no, se ma lo ti piacerebbe ricevere un'Italia a maggioranza musulmana? Ma sì, certo che mi piacerebbe. È a favore della poligamia, per carità. Cioè, avere rapporti plurimi non è una cosa così disdicevole, naturalmente. In Italia è pieno di tradimenti, è pieno di persone che hanno rapporti con tante donne, uomini o donne che hanno rapporti con tanti uomini. Non è quello il problema. Ma la poligamia è la istituzionalizzazione del rapporto, tra l'altro riservato solo agli uomini, di avere, diciamo, più matrimoni, cioè di avere più legami veri e propri, cioè legami scritti. La poligamia, ragazzi, è a favore questo signore italiano. Sei a favore ma della certo poligamia? Ma come certo? Della poligamia. Come certo! E perché no? Cruciani, perché no? Ma dai, la poligamia! Perché no? Su. Perché no? Perché no? Ma dai, come la poligamia? Uno si può sposare con... Perché e perché no? La donna non può sposarsi con 10 uomini? Ma che va a pari? Mi ti sei boldrinizzato tu adesso. Alessandro da Roma, vai Alessandro, vai. Oh, Cruciani. Dimmi. Allora, io mi sono rotto il cazzo di Parenzo. Ormai sono... 3 anni, 4 anni, sono 3 anni, 4 anni, chiacchierata incessantemente, sempre in quella direzione del 5 Stelle. Parenzo, aspetta, che aspetta, fai finire. Dai, Alessandro, dimmi. Spazio Cruciani, mentre Cruciani è uno, non ho capito, che non ho capito niente perché si è sovrapposto Parenzo. Che cosa stai dicendo, Alessandro? Dicevo, dimmi. Secondo me Parenzo dovrebbe chiedere scusa umilmente al Movimento 5 Stelle per la sua faziosità, perché sono anni che attacca sempre, sempre, costantemente in un'unica direzione il Movimento 5 Stelle. Non ti pare proprio, Cruciani, mentre tu sei uno che spara merda da tutti i lati, giustamente, dice Grillo, dice cose giuste e sbagliate, Renzi dice cose giuste e sbagliate, Parenzo è un faccioso, secondo me è pure prezzolato, ma è prezzolato dai salutini. Prezzolato è grave, è grave, prezzolato significa pagato, prezzolato. Chiaro, mercenario, Alessandro? Proprio sinonimo, ma cosa vuol dire mercenario? Mercenario significa che si fa pagare da qualcuno per dire certe cose, ma è gravissimo quello che dice. Cruciani, posso avere il numero di telefono di questo qui in privato? Posso averlo? Sai come funziona il Parenzo pensiero, Cruciani? Così uno capisce tutto. Sa lei come funziona? Lei mi può criticare per quello che dico. Stai zitto un attimo, Alessandro, stai zitto un attimo. Siccome non la penso sempre come, non la penso come i 5 Stelle, non per questo sono pagato da qualcuno, brutta testa di cazzo, hai capito o no? Non è che se uno non la pensa come te è pagato da qualcun altro, salame, Alessandro. Idiota, secondo te da 4 anni che stanno in Parlamento non hanno fatto una cosa giusta? È possibile una forza politica che stanno in Parlamento non ha fatto una cosa giusta? È possibile? Sì, ma che c'entra essere pagati? Non ho capito, essere allora, prezzolati, no, che c'entra? Devi far finire la frase, tu detto, ma mica sei un politico, hai detto prezzolato, hai detto prezzolato. Dai salottini che frequenta, dai salottini. Sai come funziona il Parenzo Pesciero? Funziona che lui va in quei salottini col professor cazzo buffo, il professor del qua e dell'A, e dicono 5 stelle e così, e lui dice queste cose, e dopo gli danno la trasmissioncina, gli danno le cosette, gli danno l'apparizione. Ma che dici, Alessandro? Non dire cazzate, non sai nulla, dai! Ma che non sai niente, dai, non sai niente! Imbecille! A te non ti invitano neanche, non nel salottino, manco nel tinello, perché gli fai schifo, capito? A te non ti invita nessuno perché gli fai schifo, ma non perché non la pensi come loro nei salottini, perché gli fai schifo, capito? Sei la testa, la numero 2 del PD dopo De Benedetti, te. Ma che c'entra PD? Ma che c'entra? Come non ho mai preso la tessera del PD e lo puoi verificare, io ti querelo. Come è vero il Dio e come sono veri i miei 3 figli, siccome io non ho mai preso la tessera del PD, se tu lo dimostri, io ti do 100.000 euro. Se tu allora dimostri, brutta testa di cazzo! Brutta testa di cazzo! La maggioranza silenziosa, ecco. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Brutto imbecille. Se tu dimostri che io ho in tasca la tessera del PD, ti do 100.000 euro, altrimenti me le dai tu. Tu sei un giornalista, non ti devo insegnare il tuo mestiere. Ma Alessandro, Alessandro, valutare gli atti e parlare di valutare gli atti, non a priori. Ma uno può avere le idee che vuole, Alessandro. Ma stai zitto, Alessandro. Ma stai zitto. Ma dai, tutte puttanate. Ma sono tutte puttanate. Non hai detto una cosa. Non hai detto una cosa concreta. Non hai detto una cosa concreta. Non hai detto una cosa concreta. Non hai detto una cosa concreta. Allora, a casa. Crucia fino alla notte. Non mi rompete. Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. Stronzone. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Gianni, stamattina in metropolitana a Milano eri seduto esattamente davanti a me. Mentre ti guardavo pensavo, ma come fa uno così, con quella faccia, con quei denti, con quei capelli, con quell'odore che si sentiva esattamente dalla parte opposta dei seggiolini, a scoparsi la quantità di donne che gli vengono attribuite? Sarà quantomeno simpatico. Magari non in trasmissione, ma magari sarà simpatico. Ti si avvicina una signora, ti chiede una foto e tu la mandi anche a cagare. Qual è la via, maestro? Qual è la via? Allora, razza di cretino, imbecille e deficiente. Tanto per dire alcune cose. Allora, è un bel racconto. No, ma però è tutto vero, è vero. Ero in metropolitana e questo ti fa capire tante cose. Io vado in metropolitana, caro David, sì. Tu non ci vai, per no, esempio. Attento, io ho detto più volte che a Milano vado sempre in metropolitana. A Milano. A Roma no, perché non ti vuoi sporcare con la plebe, perché ti no, fa schifo la metro di Roma. Funziona, dillo. Funziona, ma beh, sì, lo ti fa schifo, dillo, alla sindaca Raggi. Ma non per la gente che c'è. Ma non per la gente. Beh, che anche c'è. Un po', anche un po' per ma la gente. Ma assolutamente, sì. Tutt'altro. A me piace. No, ma assolutamente. Allora, ma a vado me piace no, ma vado in metropolitana. Ma hai detto sì, assolutamente. A Milano usi la metropolitana. Io la uso spessissimo. No, allora, è tutto vero quello che racconta, a parte il fatto che. Ma tu perché che la metropolitana la chiami il trasporta poveri, ad esempio? No, io non ho mai detto una cosa del genere. No, bisogna svelarlo adesso. Ma non l'ho mai detto. Dici, io vado nel trasporta poveri perché lì raccolgo delle storie, vedo le facce di tristezza. Non è vero. Nel mio mondo ricco, sono felice. Questo dici. Dillo fino in fondo. Tu delle figli, se uno è povero non ti piace, quindi la metropolitana, cruciali due punti, la metropolitana per me è un trasporta poveri. Ma non è vero per niente, non l'ho mai detto in vita mia e sicuramente non lo penso, cioè certamente non lo penso. Comunque è tutto vero quello che ha raccontato quella, a parte la puzza che ovviamente non si sentiva. C'è una signora che si è avvicinata e tu le hai messa via. Allora è vero, io stavo leggendo l'iPad, ti racconto, stavo leggendo l'iPad. Aspetta, sì. Io faccio sempre tutto, mi si avvicinano le persone, chiedono una foto, un faccio tutto. Nonostante la mia ritrosia a essere in mezzo alle persone, perché sono un po' orso da questo sì, punto questo di vista. È vero, tu odi la gente. No, sì, ma non vero. È che odio la gente, odio il popolo, tutt'altro. Cioè, non no, odio tu le persone. Sei agorafobico, cioè sì, ti danno abbastanza. Fastidio le... Sì, mi danno fastidio gli assembramenti. Ah, ecco. Chiedo scusa se ho usato la parola agorafobico. È evidente che quelli che telefonano non sanno il significato, quelli che ascoltano, sì. Ma lo insomma... sai che ci sono una marea di camionisti che sono incazzati con te come delle bestie? Sì, ma incazzati, sono incazzati con te come delle bestie. Te ne faccio ascoltare uno, guarda, un ma camionista sì, incazzato con te, poi riprendiamo il discorso della metro, aspetta. Ti pareva se quello scemo lì, quell'abbellinato di Parenzo, non ci mettevi in mezzo noi camionari subito? Ma senti un po', Nini, ma secondo te il camionaro c'ha il tempo da andare a mignotte? O cretino, abbellinato che non sei altro, Benin che siamo sempre a lavorare, e chi cazzo ce l'ha il tempo di andare a mignotte? Ce l'hai te che non fai un cazzo dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera, Bellinone che non sei altro, va, ma vai a cagare Parenzo, maggioranza silenziosa. E ieri ti sei scagliato in maniera violenta contro i camionisti che chiamano no, questi zozzoni. Ma non sì. I camionisti sì, in quanto sì, camionisti, sì. Io mi scaglio contro quelli che telefonano. E hai parlato anche di camionisti, ma lasciamo perdere. Quelli che chiamano, ci sono c'è tanti camionisti una guerra che non chiamano, ad esempio. C'è una guerra sono... in corso tra i camionisti italiani e il signor David voglio... Parenzo. Ma non è vero, io voglio molto Parenzo bene li considera degli imbecilli, degli stolti, delle persone che non lavorano. No, io considero il 90% di quelli che telefonano degli imbecilli, mentre ho grande rispetto per gli ascoltatori che sono tantissimi, che è il paese reale, la gente per bene, è il macellaio, è l'industriale, è il notaio, è l'architetto, è il commerciante, è quello che ha chiuso l'attività perché è in crisi ma non rompe i coglioni, non telefona urlando, non vuole sparare ai ladri, questa è la maggioranza. Vabbè, ragazzi, ti stavo dicendo allora scusa. Si è avvicinata una signora, stavo leggendo l'iPad dentro la metropolitana. Bello, brutta, no, una signora anziana, una signora non anziana, no, una signora di, non lo so, 60 anni, cosa del genere. Vabbè. Ma non ho nemmeno notato, è stato un attimo. Scusi, mi ha picchiato, scusi, le posso fare una foto? Io ho detto, signora, aspetti un attimo, sto leggendo. No, quella insisteva, devo scendere alla prossima fermata. Beh, amica mia, sto leggendo una cosa, fai una foto, non mi rompere i coglioni. Ma potevi far fare la foto, ma ho capito, mia. È una rottura di coglioni, scusa, stavo ma là con l'iPad. Rottura, una rottura dai, di... ma poi a voce alta in mezzo alla gente mi sono quasi vergognato. Dai, ma vergognato, devi vergognare di come sei, della maleducazione. Ma quale maleducazione? Leggo, entro il 2050 saremo quasi tutti musulmani. È una cosa vera, eh? Una cosa vera. Per la prima volta nella storia ci saranno tanti islamici, 2,8 miliardi quanti cristiani. Entro il 2050 il numero di musulmani sarà quasi uguale al numero di cristiani in tutto il mondo. Donato, dove sei, Donato? Questo non credo. Atei, agnostici e altre persone che non si dichiarano religiosi come me rappresenteranno invece una quota decrescente della popolazione totale del mondo. Minoranza, siamo noi minoranza, altro che. Mamma mia, avanzano i musulmani, ragazzi. Massimo da Milano, andiamo, vai. Sì, pronto. Sì, sì. Dimmi, ti Massimo. Senti bene? Sì, dimmi. Ok, Ascolta, io prima di tutto ciao a tutti. Va bene, io sono un capotreno sui Freccia Rossa, i treni che prende sempre Parenzo. Ma li prendo anch'io ai Freccia Rossa. Dipende, cioè. Io prendo molto ma, anche gli ma sei sul Freccia Rossa anche adesso? No, no, adesso ho finito, appena finito, sono appena tornato da Venezia. Hai fatto Venezia-Milano allora? Venezia-Milano e Freccia Rossa. Sì. Allora che ci racconti? Volevo fare presente a Parenzo la quantità di, come possiamo chiamarle, risorse? Sì, risorse, bravo, risorse come lo definisce la Boldrini, risorse, certo. Esatto, la quantità di risorse che si trovano a Venezia, che ti accompagnano gentilmente a portare il bagaglio, facendo sparire mediamente 100 euro a bagaglio, i bagagli, così, e noi ci troviamo senza poter agire, senza poter fare nulla per poter tutelare i nostri viaggiatori. Cioè tu mi stai dicendo che alla stazione di Venezia, aspetta, alla stazione di Venezia, questo è un capotreno di Trenitalia, ci sta dicendo che alla stazione di Venezia c'è un proliferare di risorse, non so a cosa ti riferisci, probabilmente i migrati. No, proprio più zingari. Zingari, Rom, allora Rom, esatto. Che offrono un servizio che è quello di come portare i bagagli, in realtà se li fottono, comunque fanno dei furti, più o meno è questo, no? Sono dei ladri. Chi interviene? C'è qualcuno che interviene o no? L'unica cosa che noi possiamo fare è chiamare la polizia. Ma intervengono o non intervengono? Che assolutamente non intervengono. Non intervengono. Vabbè, per cui c'è la polizia ferroviaria, no? Tra Venezia, Padova, Verona, tutta quella linea lì. Tutta quella linea là nelle stazioni oppure anche dentro i treni? Nella stazioni e anche soprattutto sui treni quando salgono. E noi non possiamo toccarli. Come li considera lei i Rom? Io ho anche degli amici Rom, ho anche degli amici immigrati, ho anche dei colleghi immigrati. Queste persone li considero dei ladri, dei stronzi. Ma chi ruba? Certo che è un ladro. Ma perché lei chiama? Perché cosa dovremmo fare secondo te? Beh, questi qua vanno segnalati, ci vuole un intervento. Ma è molto semplice, basta chiamare quella che si chiama tecnicamente la Polfer, cioè la polizia. Sì, però evidentemente non basta, perché questi qua ogni giorno compaiono, cioè non è che si può fare il presidio continuo, immagino, no? Massimo, che succede concretamente? Non vengono, non si muovono. Vabbè ragazzi, facciamo un appello alle forze dell'ordine per presidiare di più, secondo quello che ci sta raccontando questo capotreno della Freccia Rossa, le stazioni del Veneto tra Venezia e Milano, perché evidentemente ci sono nugoli, come si dice, no? Ci sono una miriade di Rom. Parenzo, è vero, ci sono una miriade di Rom. Va bene, mi dispiace molto, ma adesso sembra che io difenda i ladri, cosa che non faccio mai. No, però per te non è un problema, minimizzi, capito? Ma certo che è un razzista questo signore. È un razzista questo signore. È un razzista, Massimo. Voglio esprimere solidarietà ad esempio a Maurizio Belpietro. Ho appreso oggi qui. Vabbè, adesso che c'è, tu dici che siccome non ci sarà più Belpietro da lunedì, dobbiamo fare un po' dalla vostra parte. No, tu lo fai già ogni giorno, esatto. Quindi non c'è. Bisognerà, come dire, no, riaccendere. Ci sarà una grande nostalgia, perché un campo Roma al giorno dove lo troverai collegato? Sono Belpietro, lo trovi. Sono chiuso Belpietro da Rete 4, mi pare. Sì. E ho letto così, mi pare di aver letto, poi non lo so. Sembra che l'abbiano chiuso. Sembra e quindi che ti puoi candidare tranquillamente a prendere la parte di Belpietro. No, non ci penso nemmeno lontanamente, guarda. E non ci pensano nemmeno loro, soprattutto. E puoi tranquillamente ogni sera. Vabbè, Massimo, io non ho capito una cosa. Tu ti senti a disagio come capotreno della Freccia Rossa davanti a cose di questo tipo? Che reazione hai? Noi ci sentiamo a disagio per due motivi. Il primo è che molto spesso veniamo aggrediti pure noi, verbalmente e fisicamente, con sputi, lanci di oggetti. Addirittura. Ma soprattutto ci sentiamo a disagio nei confronti dei viaggiatori. Perché spesso i viaggiatori vengono da noi dicendoci: ma voi non potete fare niente. Ma perché non transennano, non chiudono queste stazioni? Come Roma. Perché costa troppo? Non lo so, dimmelo tu. Tu sei il capotreno, mica so io. Vabbè, Massimo. Grazie. Azuz, Verona, vai. Azuz. Muslim. Vai. Ciao. Però sento poco, Azuz. Dove sei, in macchina? Sto guidando, ma una voce. Aspetta, ci sentiamo tra poco. Abbassa tutto, chiudi la radio, spegni il telefonino. No, il telefonino no, perché sennò come cazzo chiami? No, come fa a parlare? Lo so, auricolare, le solite robe, dai. Avete cagato papà la minchia a questa trasmissione, solo sconzate contate, eh! fermare l'Islam. L'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. Io sono Cristo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Da 10 anni InfoCert significa innovazione e trasformazione digitale per professionisti, PMI, grandi aziende, banche e pubbliche amministrazioni. La fiducia di oltre 1,5 milioni di clienti è per noi il miglior regalo di compleanno. Noi continueremo a dedicarci all'innovazione e alla sicurezza del loro business. Buon compleanno, InfoCert. Buon compleanno, futuro. Vai su infocert.it e scopri quello che possiamo fare per te. InfoCert, gruppo Tecno Investimenti. Super, ma anche veloce, con assetto sportivo e black interior. Super, ma anche veloce, con terminali di scarico maggiorati e inserti in carbon look. Giulietta Super, ma anche veloce. Guida Giulietta Veloce Edition, con black interior, assetto sportivo, terminali di scarico maggiorati e inserti in carbon look in omaggio. E inizia a pagare a giugno 2018. TAN 395, TAEG 580. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su alfaromeo.it. Alcuni imprenditori stanno per chiedere un finanziamento. Comincia una corsa a ostacoli. Il primo è bloccato da una montagna di documenti. Il secondo non offre garanzie personali e abbandona la corsa. Il terzo è costretto ad aspettare all'infinito. Ah, questo ha scelto Lendix.com e il suo prestito è già stato approvato. Lendix, la piattaforma di finanziamento online, permette alle PMI di ottenere un prestito senza garanzie personali con una risposta sicura in 48 ore. Verifica gratuitamente la tua idoneità su www.lendix.com. Lendix. Insieme facciamo credito alle imprese. La digitalizzazione sta guidando il futuro dell'energia, segnato da una profonda evoluzione delle tecnologie e dei modelli di business. ABB, da sempre protagonista nel mondo dell'energia, offre prodotti, soluzioni digitali e servizi avanzati di gestione integrata in tempo reale per una rete elettrica più forte, intelligente e sostenibile. ABB, una competenza senza confronti, al servizio del futuro dell'energia. ABB, let's write the future together. La Zanzara. E allora dai, e allora dai, le cose giuste tu le sai. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Dai, e allora dai. Ma è una roba pazzesca! E tu non le fai. Stazione Termini, uguale ai campi Rom. Tutti a casa devono andare. In stazione ci deve stare solo chi prende il treno, chi parte e chi arriva, gli altri fuori dai coglioni. Non è un mercato la stazione Termini o la stazione Centrale, quello è il nostro biglietto da visita quando arriva un turista o uno per degli affari. Cosa gli presentiamo lì? Un campo rom davanti? È questa l'Italia? A 91 anni è morta Annarella. Amica mia Annarella, mamma mia che battaglie, oh. Che battaglie. Andiamo. Però 91 anni, cazzo, te la sei goduta. Sì, certo, gli ultimi anni erano complicati. Vabbè, ho capito, però, la malattia, dai, su, la malattia era il terrore dei politici, rompeva i coglioni a tutti lì davanti al Parlamento. Cioè, da un po' di anni che si era un po' ritirata, dai. Annarella? Oh. C'è uno che se la piglia con te, un andar culo. Riccardo. Arica. No signora, nel culo lo prende lei e tutta la sua famiglia. No, capito? No, che Riccardo. Signora, nel culo lo può prendere lei tranquillamente. Riccardo. Tanto da come parla, sarà già abituata. Se che venisse domani, poi arrivi a Montecitorio, che lo becco io. Hai capito? Ma guarda, io non c'ho bisogno di venire a Montecitorio perché lavoro, non so come te che c'ho cazzo da fa, che mi hai fotto la pensione, che non hai mai lavorato, da coglione. Tranquillo, quella che la pensione a 40 anni, di mortacci tua. togliete Riccardo, togliete Riccardo. Faccio da solo nel cocomero. Mamma, se lavate la faccia quando è che venite in Parlamento, perché se ne passate tutte da qua a parte. Ma da chi è passata? Da Berlusconi. Ma passare dove? Nel letto di Berlusconi? No, no, Annalena, no, no, no. Adesso vi dico in proprio qua in diretta, sì, che la signora sarà querelata da me perché sono stufa, perché è di una volgarità assoluta. Ma è solo la pensione, la signora, poverina, non mi interessa niente, ma questa signora va in giro a gettare discredito sul prossimo continuamente. Signora Annarella, ci vediamo in tribunale, verrà querelata, perché voglio vedere se qualcuno può dire che io ti vedrei che bella querela che ti faccio, ti porto in tribunale, perché hai finito di rompere le scatole a tutto il mondo. Ma perché si arrabbia così? Perché è una persona che io ho cercato di aiutare, ci ho messo il cuore. Ma è vero, senza è vero, aspetta, è vero o no? E questa mascalzona, lei è una mascalzona, si comporta in questa maniera, gira da una trasmissione all'altra e si permette di dire cose su di me che non stanno né in cielo né in terra, perché tutti sanno nel sistema istituzionale, politico e mediatico, che io non ho nessun rapporto di quel genere con Berlusconi. Questa signora è solo da querelare e la deve smettere di andare da una trasmissione all'altra. Pure. Adesso ti querelo seduta stante, appena esco da qua, tanto ci stanno sentendo in tanti. Allora, Giacomo dalla provincia di Matera, vai. Questo era uno scontro mitico tra qui alla Zanzara, tra Annarella e la signora Biancofiore. Signora Biancofiore, vai. Che è quella che ha fatto un po' indirettamente, ha fatto cadere la legge elettorale, caro Parenzo, no? No, indirettamente, certo, l'emendamento sul Trentino, penso a te. Certo, assolutamente, poi lasciamo perdere che chi se ne frega, eh. Vai, Giacomo. Pronti? Dimmi, dai, forza. Macerata, no, Matera. Vabbè, uguale, dai, Macerata. Ma che è uguale, un cazzo? No, giustamente, giustamente, tu dici uguale al cazzo, perché tra Macerata e Matera magari preferisci stare a Macerata, no? Perché ti fa schifo Matera, no? Matera, un matrimonio non era male, e allora non insultare quelli che stanno a Matera, dai. No, no, chi anzi, tutti amici. Si mangeria. Volevo fare una domanda a Parenzo. Eccomi qua. Volevo dire che perché questo sponsorizza tanto questi musulmani, Maometto, Islam e Muslim, tutte buttate. Io volevo chiedere, ma il fatto che era pedofilo, cioè non è come se lui sta sponsorizzando una religione pedofila? Senta un attimo, senta, lei intanto è un mascalzone, che lei è un mascalzone. Lei è il più grande, ma è un mascalzone, è un mascalzone, è un mascalzone, perché sta... lei è un mascalzone, un povero mascalzone che sta offendendo 1,5 milioni di persone. Comunque se ne fa piacere, perché lo ritiene divertente offendere 1,5 milioni di persone, ciò la qualifica semplicemente come mascalzone. No, è vero che lei è un mascalzone, è vero che lei è un mascalzone. Lo disse anche un consigliere comunale della Lega a Trieste. Ma non è che questo lo rende vero. No, ma per dire, non ho detto che è vero, ho detto che aveva 9 anni, mi sembra. Sì, vabbè, è una vecchia storia, pare che non abbia avuto rapporti sessuali, era usanza all'epoca. È una mascalzonata e in più per loro è considerata anche una bestemmia, quindi vedete voi. Una bestemmia, adesso voglio dire che ci siano i matrimoni con donne molto più piccole in molti paesi islamici, questa è una realtà, cioè poi Maometto pedofilo, non pedofilo, non è una bestemmia, si può anche ma non è che si può dire, cioè, non è, certamente non è che oddio una bestemmia, cioè, poi tu hai fatto una domanda, no Giacomo? Io ero curioso di sapere che ne pensava, se sponsorizzare, magari se fosse vero lui sta sponsorizzando una religione per pedofili. A parte che non è che credo che Parenzo sponsorizzi una religione, non è quello il punto. No, appunto, se uno gli dice a uno musulmano maomettaro del cazzo, pare che sospende tanto, quindi... Allora, dimmi quello che pensi tu, Giacomo, dei maomettani, cioè dei muslim, come li chiamo io. Dimmi. Penso che coprano le mogli perché, siccome sono gnocche, che fanno? Che fanno? Coprono le mogli perché sono gnocche. Bah. Esatto, siccome loro sono brutti come le capre. Invece, ma non è un'analisi questa, cioè non è un'analisi. Posso dirti una non cosa? Non è un'analisi sociologica. Questo ascoltatore mostra di essere intanto un troglodita, e spero che, chiedo scusa ai trogloditi. In più è una persona non volgare, ma semplicemente cattiva. Perché è cattiva? Perché lasciamo stare sul piano, come dire, del buon gusto di insultare o non insultare, che quello anche a me possono dire sei un maleducato, perché alle volte insulti qualcuno e ci sta. Ma lui in realtà sta facendo un'operazione molto più bassa, schifosa, meschina, e per questo lo qualifico come cattivo, cattivo allora d'animo, che ha fatto? Perché sta volontariamente, volontariamente, perché non ha motivo, provocando 1,5 milioni di persone che hanno una fede diversa dalla sua. Quindi, detto con tutto il rispetto, è una testa di cazzo. Chiaro, Giacomo? No, lei provoca i possessori di capre, però. perché io il fatto che ho detto che magari sono brutti come le capre, lui... Vabbè, sei un cretino, dai. Io penso che a lei le convenga nascondersi, gettare il telefono, perché il telefono oggi, questa telefonata l'ha completamente screditata e umiliata. Cioè, io sono sicuro che le persone che le stanno vicine e che hanno purtroppo ascoltato la figura di merda che lei ha fatto fare alla sua famiglia e alle sue persone vicine, si vergogneranno di lei, perché diranno: mamma mia, ma perché mio zio, mio fratello, mio ha offeso 1,5 milioni di persone? E con quale motivo? Perché? Cosa ha trovato? Perché no, anziché telefonare, non è andato a farsi un aperitivo, non ha letto un libro, o semplicemente non ha ascoltato la trasmissione? Perché ci ha umiliato così come famiglia? Capito? Lei sta provocando Giacomo, in questi dimmi, secondi un dolore alla sua famiglia. Sto parlando, mi sembra tu cazzo. Le posso dare per lei? Giacomo, dai, forza. Ma metto lei, te li coglioni. Metto lei. Dai coglioni. Sì, ma se parli in marchigiano ti capiscono in quattro, capito? Cioè, levati dai coglioni, che hai detto? Sì, con lei però. Con chi? Con me, non ho capito. No, con te che scendi tu. Vabbè, Giacomo, sei fatto completamente, sei ubriaco. Ciao, ciao. No, ciao. Io naturale. Ciao, appunto. Ciao, Eli, naturale. Ciao. Sgarbi alle prese con chi è cara? Con Lucci, sì, con Lucci a Nemo. Vai. Sono un uomo meraviglioso. Tu perché sei appetibile per una donna? Beh, bisognerebbe chiederlo a loro, però ci sono molte... Che idea ti sei fatta di te stesso? Capirai? Beh, io sono un uomo meraviglioso, insomma, sono stupefacente, capisci? Cioè, invece uno si droga, quanti sono i ragazzi? Forse il 90% di quelli che stanno in questo luogo ha provato una canna. Io non ho mai sentito né visto la droga, anche per la mia generazione, ma io sono una droga vivente. Chi viene con me vive un brivido senza precedenti. Ospiti, Vittorio, smetti con sto telefono. Puoi farti i cazzi tuoi. Non lo so. Ascolta, io ce l'ho a morte con Parenzo. Sei proprio un bigotto, Parenzo. Con quegli occhi da palla, brutto quanto la fame. La Zanzara. Allora, caro David, ho letto che è stato condannato a 5 anni il signor Paolini, il disturbatore Paolini. Ragazzi, questa è una cosa seria però, Per quale reato? Beh, per vari reati, insomma, andava con i minorenni, andava con gente di 17 anni, induzione alla prostituzione, pedopornografia e cose di questo tipo. 5 anni di galera. Siccome possediamo anche numeri di casa del signor Paolini, Gabriele Paolini, chiamiamo, sentiamo, condannato con cioè, spesso noi conosciamo Paolini, poi molti di voi magari hanno saputo nel passato che era sicuramente omosessuale o comunque bisex, che era attratto da ragazzi più giovani di lui, e qualcuno di voi magari sa anche che è andato sotto processo, è arrivata la prima condanna, 5 anni di galera. Tutto questo ovviamente a me fa schifo, dunque dietro quell'aria da incursore, no, durante le trasmissioni, da rompicoglioni, anche dei processi in corso con vari giornalisti e conduttori televisivi, si cela in realtà un mezzo pedofilo. Non è proprio pedofilia, ma quasi. Pronto? Sì, signora, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Cruciani, Radio 24, come andiamo? Normale. Gabriele è lì? Gabriele c'è, sì, voleva sentirlo? Sì, c'è stata questa condanna, signora. Purtroppo, lo so, purtroppo. Ma 5 anni, che ne pensa lei? È stata eccessiva, secondo me. È eccessiva? Ma parte... pedofilia, cara. No, non esiste questa pedofilia, scusi, sotto i 17 anni è pedofilia. Ho capito, rapporti sessuali con 3 minorenni, però. minorenni che sono 17 anni. Beh, ho capito, però rapporti, rapporti comunque sempre minorenni sono, cara. Rapporti, rapporti, che non è che ha avuto dei rapporti, che è andato a cercare lui queste persone e tutto. Rapporti in cambio di denaro e regali, cioè secondo lei è innocente, non ho capito. Non ho detto che è innocente, ho detto che eccessiva la pena, cioè, considerando quello che accade giornalmente e quello che sentiamo è cosa. Non ha fatto delle cose trascendentali, perché stiamo parlando di minori di 17 anni. Ho capito, però signora, 17 anni, e denaro, regali, rapporti, tutti, ripresa, no, ripresa di rapporti, non è tutti bello. Consenzienti, guardi, che dato che io ero presente a tutte le udienze. E perché ha preso 5 anni se erano consenzienti? I ragazzi hanno testimoniato dicendo che erano consenzienti tutti. Sì signora, perché ha preso 5 anni allora? Non lo so, perché non ci sono sempre le cose giuste nella vita, lei lo capisce, lei lo sa. Sì signora, capisce che però 5 anni per queste cose qua, anche se sono 17 anni, comunque sono cose gravi, per me è addirittura poco 5 anni. Cioè... Ah sì? Eh sì, le dico la verità, per me però è poco. Io non ho nulla, io non ho nulla nei confronti di suo figlio, per carità, non ho niente, però se uno si mette a fare sesso con i ragazzini, amica mia, Considera ragazzine 17 anni, roba che a 14 anni ne fanno di cotte di crude. Ma questo non c'è dubbio, però bisogna, innanzitutto, qui c'era la questione della prostituzione, qui c'era il pagamento di qualche denaro, c'era uno che firmava i rapporti, c'è un sacco di roba, non è, è una roba schifosa, è una roba orribile, signora. Io la vedo molto informata, è venuto anche a qualche udienza. No, leggo qua, questo è... leggere, ma che c'entra l'udienza? Bisogna riconoscere una cosa, cuore di mamma. Bisogna viverle le cose. Signora, io dico una cosa, secondo lei adesso suo figlio andrà in galera o no? Ma io mi auguro di no, perché considerando che quelli che sono in galera, a quelli che sono in galera, che hanno commesso degli omicidi, danno le cose premio. Ma i problemi di suo figlio, da dove vengono? Ha disturbato per anni i giornalisti. Vabbè, ma quello chi se ne frega. No, questo qui è magari... trovano il modo per toglierselo di torno in qualche addirittura modo. Vabbè, me lo passa un attimo? Un attimo, Sì, grazie. Pronto? Gabriele? Sì? Come andiamo? Insomma 5 anni, Una bella botta, vecchio mio, E un dente che al momento è stato tolto, però come si dice, c'è l'appello. Ma ti senti innocente tu? Ma io ho sempre dichiarato la mia piena consapevolezza nell'aver amato e frequentato a livello intimo una persona, all'epoca Daniel nel 2013 aveva 17 anni e 2 mesi, io ero perfettamente consapevole, quindi questa responsabilità me la sono assunta da sempre e da subito. Quanti erano in tutto sti ragazzini? Quanti ragazzini? 17 anni e 2 mesi non credo giusto sia definito ragazzino, consentimi di... Beh, comunque minorenni. Le accuse sono con 3 minorenni. Allora, ci sono gli altri 2 ragazzi, Davide ed Eddie, non c'è stato nessun tipo di rapporto sessuale. Gabriele, qui leggo, induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico, tentata violenza sessuale. Io con Daniel c'è stato un rapporto che è durato purtroppo poco, perché poi chiaro mi hanno arrestato, durato 3 mesi e mezzo. In questi 3 mesi e mezzo io ho vissuto alla luce del sole, i genitori di questa persona erano perfettamente consapevoli. Ma lui era innamorato, Davide? Daniel, scusami, era innamorato? Assolutamente sì, nel luglio 2015 è pubblico, è venuto in tribunale davanti a 3 giudici, mi ha abbracciato, E i genitori di Daniel erano consapevoli che tu, avevi... Daniel sapeva, la mamma di Daniel l'ho conosciuta, sono stato anche più volte a casa sua, sapeva perfettamente della nostra relazione. Ho capito, però, amico mio, però è un reato, che devi fare? Erano prevenuti i giudici? Erano prevenuti, secondo te? Io sto pagando tantissimo il fatto di aver pubblicamente detto in tante occasioni di aver fatto sesso con Ratzinger. Con Ratzinger, però, amico mio, come fai a te? Ma dai, io su. L'ho urlato. Non ho capito, stai pagando questo, ma la gente non è che dice che paghi per... Cioè, le persone che quando tu dici una cosa del genere, ci credono, ti pigliano per matto, come un po' sei, d'altra parte, no? Cioè, non... Hai fatto sesso con Ratzinger? Ma questa è una cosa che io ho detto con Ratzinger, sì, scusi, con Papa Ratzinger. Ma dai, io pensavo fosse Ratzinger, un tedesco qualunque. Ma che dice? No, confermo assolutamente, ma non è che è una cosa ma che io dico. Ma confermo cosa? Ma voglio dirle, professore, lei già è in una condizione difficile, perché è stato appena condannato a 5 anni per un reato che è orrendo proprio, è tra i reati forse più brutti che si possano fare, commettere. Ma in più adesso dice che ha fatto sesso col... Quando avresti fatto sesso con Ratzinger, scusa? Io avevo 14 anni. E lui? era la, all'interno della sauna Antares in via Pigafetta a Torino, e lui era per camminare, ma uscendo, voi potete ridere. Ma no, ma dai, su, tu dici ho pagato questa roba qua. Allora io voglio capire una cosa, sei un pedofilo, sì o no? Sei un pedofilo, sì o no? Ma assolutamente, la pedofilia è tutt'altra cosa, ragazzi. 17 anni, che cosa c'è zecca? Come direbbe Di Pietro. Benissimo, non ti definisci un pedofilo. Sei uno che ti piacciono i ragazzini più giovani. Ma neanche la procura, ma neanche il tribunale. Benissimo, benissimo. Ti piacciono i ragazzini più giovani? Allora, io ne ho 42. Se io devo scegliere di avere un partner di 20 anni o uno di 40, io sceglierò senz'altro sempre la persona di 20. Ma sì, non, però non amico mio, la prossima volta, se mai uscirai fuori da questa vicenda, vuoi far sesso con qualcuno, guarda la carta di identità. Per cosa paghi riguarda, il fatto che sia una persona che si... E i video con Dani ci sono le fotografie e i video con Dani, ma sono di momenti in nostra intimità. Scusami, quando è che metti un po' la testa a posto, ti trovi un lavoro, fai una cosa, cioè, insomma, non puoi vivere sempre così. Hai paura di andare in carcere o no? Ma assolutamente no, ragazzi. Ma il presidente della Francia, Macron, si è innamorato a 16 anni di una donna, ok? Vabbè, ho capito, e ma che c'entra? Poi si sono sposati. Se Macron si fosse innamorato di un professore, no, ha fatto sesso in cambio di regali, Gabriele. Ma perché giustamente se uno si fidanza con una persona non gli offre poi tutto, e questo mi hanno contestato. C'era un finanziere. Comunque, guarda, è una porcheria. La realtà è che è una porcheria, dai, su. Io sono una persona liberale, aperta e tutto, però è una porcheria, dai, su. Cioè, è una porcheria, Gabriele. Cioè, vergognati un po', ma non ti vergogni un po'? Ma assolutamente no, io ho. Non ti vergogni. Il sottoscritto ha confermato che ero perfettamente consapevole dell'età. Ecco, questa è una cosa che fosse stata. E allora ti becchi la condanna, che devi fare? No, state omettendo. Cioè, c'è un grande complotto. In realtà c'è il marito della Mussolini che c'entra. Il marito della Mussolini è andato, ha fatto sesso con due quattordicenni e ha confermato che non era consapevole dell'età di Cioè, ragazze. Tu sei meglio del marito della Mussolini. Noi ci crediamo. Berlusconi è stato assolto in Cassazione in terzo grado perché ha detto che non era consapevole dell'età. Io ero perfettamente consapevole dell'età di Dani. Ma scusami, sarebbe come dire: io ho rubato, ero consapevole di rubare, esatto. L'ho anche detto, e diceva: ho capito, non è che ti salva dal commettere un reato. Sto dicendo che ma c'è un complotto contro di te? C'è stato un complotto contro di te? Assolutamente sì. Cioè, per questa cosa di Ratzinger? Per quello, per il fatto che io sono una persona che rompe le scatole, che ha rotto le scatole per 20 anni, ha rotto le scatole di un paese. Cioè, hai rotto le scatole, facevi l'incursore in televisione, non è che hai rotto le scatole, adesso non esageriamo. Ti devo salutare, ciao. E viva, arrivederci. Avete rotto i coglioni. Ma avete rotto le palle, chiaro? La Zanzara. Ciao Giuseppe, sono a Rabig, un paese vicino alla Mecca. Sono qui per lavoro. Sono pazzi scatenati questi. Pregano 6 volte al giorno. Non c'è tregua. A tutte le ore gente che prega in qualsiasi angolo. Marhaba ya Namusi. Tahiyati lak min al-Urdun. Josef afdal wahed. O David hek o hek. Wa ahna daiman bel gemma. Anche dalla Giordania siamo al top. Questa poi mi ha tradotto, non mi ricordo che cazzo mi ha detto. David va bene, cioè Cruciani va bene, David un po' meno. E poi una cosa sulla Zanzara, non lo so, ragazza, chiamami dalla Giordania. Che cazzo fa quello? Con chi sta parlando quel rincoglionito? Oh, attento! C'è stavo la trasmissione. Parlando, ma stavo risolvendo un problema. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma concentrati, no. Mustafa, Modena. Urgente. Vabbè, ho capito. Mustafa, Modena, vai. Urgente. Vabbè, Mustafa, Modena, vai. Sì, sentire quel minchione lì che non sa neanche dove sta, ma figurati se è andato nei paesi arabi, quell'imbecille che ha chiamato prima, dai. Ma perché? Per sentire l'audio, ci pregano 6 volte al giorno, per sentire quell'idiota lì, dai, ma quel paese avrà registrato il sarà lì chissà dove sarà, sarà in Italia, in un paesino, in Gorgonzola, e dice: Giuseppe, sono qua, questi sono matti, non si è mai mosso. Ah, il primo imbecille, dai. Vai, Mustafa, dimmi. Sì, intanto per confermare anche per Davide, alla Macca non possono entrare se non è religione musulmana. Poi. Dove? Dove? Alla Macca, dell'Arabia Saudita. Perciò quello che hai detto prima non è vero che era vicino. Ma tu sei muslim? Tu essere muslim, io, Mustafa? Sì, come dice lei, io sono muslim, sono musulmano. Allora? Io volevo rispondere prima al ragazzo, quel signore che ha detto che Mohammed è un pedofilo. Allora, Mohammed una storia, ma sono 1600 anni fa, perciò, e la via della periferia non c'è. E la sua moglie non aveva 9 anni, aveva 13 anni, era illecito. Sì, amico mio, ma non è bello a 13 anni nemmeno, eh? Cioè, ho capito. Allora, il matrimonio, 1600 anni fa, in Europa, oppure anche il cristianesimo, facevano di peggio. La donna è considerata un oggetto, cosa dobbiamo fare? Sì, ma anche adesso non è cambiato molto. La donna in molti paesi islamici viene considerata un oggetto lo stesso. No, io sto parlando dell'Europa, il cristianesimo, noi musulmani. I musulmani sono stati i primi a liberare la donna. Sì, i musulmani i primi a liberare la donna, certo. Allora, certo, informati. Certo. Siete sì, vabbè, ma guarda, tutte le ricostruzioni storiche vanno bene. Il problema fondamentale è che adesso, se ci sono paesi dove la donna è considerata una merda, uno straccio, questi sono i paesi islamici, chiaro? Sì. Allora, si confonde la cultura con la religione. La cultura è un'altra cosa, ma la religione è un'altra. La religione musulmana libera la donna, la donna libera di scegliere di vestirsi, di sposare chi vuole. Ma in che sogno sta vivendo? In che sogno sta vivendo? In quale? No, è lei che non ha... No, non confondiamo. La religione Mustafa, è una cosa. Sei a favore? Sei a favore della cosa? Tu sei a favore della poligamia? Ma ascolta, se la religione musulmana le prevede, non c'è niente di male. Ma non c'è niente di male, un cazzo! Perché innanzitutto è riservata solo agli uomini. Sei a favore della poligamia? Come se non ce la fai andare con una donna? Ci sono gli uomini che, scusami, se sono gli uomini che con una donna non le soddisfa, cosa va a fare dei peccati fuori? No, prende una come seconda moglie. Ma amico mio, però questo qua è che... Amico mio, scusa. Ma amico mio, c'è la separazione, esiste la separazione, se uno non gli va più di stare con una donna, di scopare, ti separi e vai con un'altra donna. Non le basta, cosa fa? Va fuori in giro a pagamento? E beh, perché? Qual è il problema? Non ho capito. È un reato, per la religione musulmana è un reato, vero? Una donna, ma qui siamo nel, qui siamo nel mondo occidentale, non è reato andare a pagamento con una donna. Siamo in Occidente, le vostre regole di merda ve le tenete a casa vostra. No, ho capito, ma è inutile che gli dici così, però, perché non è che sono regole. Reputo anch'io un miserabile chi va e paga una donna, quindi adesso non è un problema soltanto del muslim, come dici tu, è l'Occidente, non è che partorisce solo cose buone, perché l'uso che fa della donna non è ma più vai a scavare dentro quella testa di questo Mustafa da Modena, più scopri delle cose orribili. Per esempio, ma non sono orribile, ma perché no? A te piacciono le donne, le pubblicità, le pubblicità delle donne mezze nude, ti piacciono o no? A parte che non piacciono manco la Boldrini, non piacciono nemmeno la Boldrini in realtà. Comunque, no, le pubblicità con le donne mezze nude, ti piacciono o no? Ma non è questione che deve piacere a me, è una cosa che prima deve piacere alla persona che l'ha fatta. Vabbè, quello gli piace, perché se l'ha fatto d'accordo e il suo corpo lei le può usare come vuole, ma io non è che io se non vuole non lo vedo. Sì, d'accordo, però va bene, questo va benissimo. Veramente. Però ti dico, tu consideri, pensi che la donna debba andare in giro un po' più coperta? Ma non è che normale, lei può andare allo scopo, la donna è libera di andare come vuole, te l'ho detto io, la donna è libera. Però io come musulmano mi giro dall'altra parte se vedo una porta, una cosa che è ma un perché po' ti giri dall'altra parte? Ma ti turba che cosa? Ma che ti turba? Una mezza te, ma che cosa ti turba una donna nuda? Ma ragazzi, ma è una follia, perché ti dovrebbe turbare? Cioè tu dunque tua moglie guarda che vai... che anche ad Inolfi non ti direbbe cose troppo lontane. Scusami, Mustafa, scusami un attimo, se tua moglie, sei sposato tu? Certo che sono sposato. Tua moglie che cosa? Islamica pure lei? Musulmana, non islamica. Musulmana. Ma il cazzo che è, dai. Musulmana. Ma così, vabbè, un po' di, ma un po' di, perché un po' di gli devi dire così? Sì, va bene, cazzo che è, nel senso, mica in senso negativo. Sto dicendo islamica, musulmana, dai, ci siamo capiti. Vabbè. In questo intendevo, non ho detto del cazzo in quanto musulmana. Vabbè, se va con una con la minigonna. Ti dice anche grazie, esce ogni tanto in minigonna. No, allora, le spiego. No. E mia moglie quando siamo sposati non aveva il foulard. La donna scegliere. Se io mi sono sposato con una sì, ma con una donna, in minigonna potrebbe mai uscire. Se lei a un certo punto si mette... È italiana tua moglie? No, è casa mia, è Marocco. In Marocco. Ecco, tua moglie potrebbe mai uscire fuori con una minigonna? Ma lei è libera a quel punto. Sì, ma lo fa o non lo fa? Lo fa o non lo fa? Lei se lo vuol fare lo può fare, ma da parte mia che io non se lo fa che fai? Ti separi? Sì, non andiamo, vuol dire che non andiamo d'accordo su certi amico mio, ma stiamo parlando di minigonna, non che si è trombata, ascolta, non che si è trombata un altro. Se tua moglie vuole andare con se tua moglie, scusami, Mustafa, se tua moglie si scopa un altro, che fai tu? No, ma non tanto non si parla così. Perché... Ma amico, noi parliamo così come la gente vabbè, capisce allora queste cose. Non, io non voglio neanche rispondere. Vabbè, scusa, Mustafa, rispondere. Allora, se tua moglie fa l'amore con qualcun altro, diciamo, no? No, non rispondo. Ma perché non rispondo? Non è una cosa così strana, succede. Lo so che non accadrà mai, per quello non rispondo. Ma perché non accadrà mai? Può anche accadere, Mustafa, perché non dovrebbe... Quando spacca una persona e sai che una persona sei fedele, non ti arriva in mente, perciò... No, però scusami, mettiamo che succeda, che fai tu? Ci sono le separazioni, ci sono i divorzi, vuol dire che non andiamo più d'accordo. D'accordo, ma come la consideri? È un peccato grave? La picchi? Che fai? Lei? No, no, ma allora, deve sapere una cosa, lei è un musulmano. Ma tu lo puoi fare? Tu lo puoi fare? Lo puoi fare tu? Ma se tu mi fai rispondere, no, ma sei autorizzato una domanda, dietro l'altra non posso. Sei autorizzato a tradire o no tu? No, no, il tradimento di una coppia non è... Però puoi andare con un'altra donna. Tra te e Dio, ma non è la persona che giudica. Mamma mia ragazzi, io sono disperato. Chi c'è? No, vabbè, chi ha chiamato? Sei disperato, però non mi pare una cosa così strampalata. A me non mi piace. Cioè, lui ad esempio dice, nel caso io mi accorgo... È inconcepibile il tradimento, se non lo voglio nemmeno sentire il tradimento, no, però, non lo voglio nemmeno sentire. Quello è un altro discorso, però non tutti sono come te. Non tutte le persone sono come te a cui piace tornare a casa e trovare ma quella la è un'altra propria cosa, moglie dai, su. Che si sta divertendo con il tuo migliore amico. Ecco, io penso che non tutti siano io anch'io in questo ma non questo sono che c'entra, muslim, dai, come dici tu, che non sono muslim, ma a me non divertirebbe per niente. Dopodiché, per carità, magari la donna in minigonna si separa, dai, si ha detto che se la moglie si mette la minigonna è si una separa. Follia sua, però se la moglie è contenta così che deve fare? Chi se c'è? Donato, che c'è? Aspetta, Mustafa, che c'è amico nostro qua, Donato, che c'è? Dimmi, amico mio, dimmi. Ah, ciao Giuseppe. Dimmi, Donato, ecco, dimmi. Sempre dimmi. Con questa voce. Ciao Giuseppe. Allora, ciao. Ascoltami, Giuseppe. Dimmi, hai sentito questo Mustafa? Peccato che a me mi si contano i minuti, i secondi. No, beh, allora, no, veramente no. Mustafa è in linea? Sì, è in linea Mustafa. Mustafa. Ti ascolto, mi dica. Voglio dirti, io vabbè, ti parlo con tu, non perché per mancati rispetto, perché io non amo il lei. Sì, dagli tu. Allora, ma vai, Donato, tu vai, lo sai, tu lo sai che i cristiani, ascolta. Sì, ti ascolto. Noi per 2000 anni in Italia non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. 2000 anni? Sì. Non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. E allora? Quindi io metterei prima cosa in galera tutta la politica di sinistra che ha fatto entrare qua questi musulmani. Ma no, perché io odio questa gente. Questa gente non la odio. Questa gente adora un Dio che non è il nostro, non mi appartiene a me. Allora? Allah non m'appartiene. Io ho paura di Allah. Hai paura? Io sono tanto a nominare la parola Allah. Io, mi si blocca il cuore. Il nostro Dio che i cristiani si mettono in testa, i cristiani si mettono, e quel cornuto del Papa, quel cornuto. No, adesso basta. Ancora una volta il cornuto del Papa, dai, Parenzo, intervieni. Va bene. Allora, una cosa offensiva, io lo reputo un cretino. Questi vogliono la poligamia. Come? Questi vogliono la poligamia per fare che cosa? Per fare che, dimmi. Mica perché vogliono schiavazzare, mica perché vogliono eiaculare a volontà. Vogliono la poligamia per arrivare a dominare l'Europa. Si prendono 5 mogli a testa, 4 figli a testa, 5 per 4, mi sembra 20, che faccia 24 cada 20, uno. Li dovete moltiplicare anche per 1 milione di musulmani in Italia. Fra 10 anni, dove cazzo andiamo a metterci al riparo? Mustafa, cazzo andiamo a metterci al riparo? Dunque, io non ce l'ho con Mustafa. Mustafa deve seguire il suo Dio. E che deve ritorni fare? A suo paese dove c'è l'Islam Marocco, e lasci stare questa terra è sacra, non ha nulla a che fare con Allah, questa terra non c'è, e non male che Mustafa dunque se ne deve andare a casa. Questa terra è di Allah, l'Italia l'ha creata Allah, no, e siamo fregati. Un cittadino italiano, italiano, dice che è italiano. Mustafa è italiano. Io ho più diritto come lei a stare qua in Italia. Uno, no, ma non sei sempre. Non penso che tu, non credo che tu sia un romano di 4 generazioni. Non credo proprio. Che c'entra? Visto che il diritto mio che stare con Italia, visto che sono cittadino italiano, io non posso. Due, lui sbaglia. La religione musulmana ha conosciuto l'Islam, ha conosciuto l'Italia più di 500 anni fa. Vabbè, adesso lasciamo perdere la storia, quello... Mustafa. Stai dicendo che te ne devi andare. Stai dicendo che te ne devi andare. Questo sta dicendo. No, io a casa mia, In Marocco, non ci sono 1.600.000 di cristiani. In Marocco non esistono 1.600.000 cristiani. Andiamo noi a fare la poligamia in Marocco, dai. Allora 1.600.000 cristiani andassero in Marocco con i cazzi in mano. Voglio 5 mogli. Ci ammazzano, ci distruggono, ci tagliano la gola. Che cazzo andiamo a prolificare i cristiani in Marocco? E che cazzo gente se lì c'è là? Questi vengono nella terra del vero Dio, sì. Yahweh, il vero Dio. Allah è venuto dopo, vabbè. Parenzo, dopo. Che dici? Che dici di Donato? Che dici? Non sa nemmeno chi è Cristo, ma lo sai questo chilo come lo chiamano Cristo? Aspetta, sì, ho capito un attimo. Parenzo, che pensi di Donato? Io penso che Donato da Varese oggi ha toccato il punto più basso della sua vita. Beh, ha insultato, insultato insieme. Tu non hai punti bassi, tu sei un'entropia. Tu sei un'entropia. Tu sei tutti tu. Tu prima o poi ti esploderai dentro di te. Il tuo niente. E abbi il coraggio di dire come stanno le cose. Pezzo di merda! Pensa ai tuoi figli, pezzo di merda! E quel porco di Sgarbi? Che c'è? Chiamatemi un po' quel porco perché? Di Sgarbi! Chiama Sgarbi adesso, vediamo cosa gli dice. È inutile che Sgarbi si inventa le storielle sui quadri. A pensare ai dipinti di riferimento religioso. Li ha pensati? Ma le sculture? Che c'entra? Non so di Botticino, non so di Raffaello. A pensare a queste cose di riferimento religioso. Quando l'Islam si insedierà in Italia, diventeranno 15 milioni, quelle opere d'arte, quel figlio di puttana di Vittorio Sgarbi, lo sa che vengono distrutte? Ma che lo c'entra? Sa che vengono distrutte? Ma che ha fatto lo Sgarbi? Sa di cazzo? Ma che ha fatto? Che ha fatto di male? Deve dire all'Islam fuori dai coglioni. Per me le opere d'arte sono da tutelare. Ma che c'entra? Ma non è che perché? Ma perché gli dici? Avete visto cosa è successo a Mosul? Avete visto a quell'architetto? Ma che c'entra con Dio? Gli hanno tagliato la testa. Ma perché te la pigli con Sgarbi? Mica vuole che Sgarbi a tutto. Allora Sgarbi è una persona si è messo in testa 1 milione di libri. Ma questo non gli fa arrivare a capire che i quadri, le sculture, quelle con riferimento religioso verranno rase a suolo, perché l'Islam quando vede una chiesa cristiana sa cosa ci vede? Vede meno di un cacatoio. Ma adesso non te lo dicono. Parenzo, che dici? Per concludere, Parenzo, io che ti dici? Dico di chiamare Sgarbi e di farlo ragionare col signor Donato da Varese. Però chiamalo al volo un attimo. Cosa gli dice Vittorio? Pacatamente, io non ho voce. Vorrei delego il professor Sgarbi, che ancora non ha conosciuto forse il professor Donato da Varese. Credo sia il momento di farlo incontrare alla vigilia di questo lungo oppure Paco. No, nessun Paco, chiama Sgarbi e digli: scusami Vittorio, c'è questo signore, lo conosci Donato da Varese? Poi glielo passi, lui ripete le cose che ha detto e facciamo forum arte, vediamo, prova. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, le nate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. È una roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. La zanzara. We are liars, we are thieves. E mio padre in macchina, stavamo ascoltando la zanzara. A un certo punto Parenzo si lancia in una sua intemerata contro lo squirting. Mio padre mi guarda e mi fa: ma Filippo, cosa significa squirting? Beh, papà, te lo spiego un'altra volta. Siamo al top. La zanzara. Always coming. Allora ragazzi, nel giorno in cui il magistrato Di Matteo dice che Riina è perfettamente lucido, caro Parenzo, beh, qui abbiamo da noi il signor Donato da Varese, il quale ha pesantemente insultato Vittorione Sgarbi, dandogli addirittura, se non mi ricordo male, del figlio di puttana, del pezzo io di merda. Io spero che Sgarbi lo scuoi in tribunale. Ma poi non si auguro. Capisce perché, tra l'altro. Vuoi ripetere il perché, scusa Donato? Semplicemente perché hai detto che Sgarbi è un figlio di puttana? Spiegami. È un modo di dire, chiedo scusa. Ma come chiedi scusa? Questo qui chiedo scusa. No, ma perché è un figlio di puttana? Perché? È un figlio di puttane perché io lo conosco Sgarbi, lo conosco. Ma perché? Cosa ha fatto di strano? Cosa ha fatto allora, nell'insieme è un intellettuale che va rispettato perché ha letto un sacco di libri. Ah, abbassa la coda della adesso. Testa. Abbassa la 5.000 coda, libri, 10.000 abbassi libri. Ma uno coda, che si scava la testa a mille, non coda, può non rendersi conto che lui, essendo il paladino di quello che rappresenta l'arte in tutta la sua esemplarità, non può, come fa? Non riesce a capire che l'Islam quelle opere d'arte ma proprio le distruggerà? Ma lo sa benissimo che l'Islam potrebbe distruggere le opere d'arte. Combatti che lui, io amo la musica, Sgarbi ama l'arte e si batte per l'arte. Sgarbi, Vittorio? Devo dire che sono perfettamente d'accordo, nel senso che a parte che io sia figlio di puttana, stronzo, testa di cazzo, ma non mi sento offeso perché dice delle cose che non solo io condivido, ma appunto, a sua saputa io dico, mi senti? Sì, ti sento, come no? Non solo le condivido, ma a sua saputa le dico... volta che faccio lo spettacolo, ogni volta che parlo di Caravaggio, elogio il crocifisso che è in un dipinto di Lorenzo Lotto, io paragono a Caravaggio, elogio il presepe che alcuni nostri, non tanto musulmani, ma alcuni presidi italiani tolgono dalle scuole come se fosse vergognoso essere cristiani. Condivido tutto, so anche che quello che lui dice è tanto vero che qualche deficiente bolognese progressista pensava di far distruggere gli affreschi di Giovanni da Modena nella cattedrale di San Petronio perché rappresentavano Maometto schiacciato sotto il piede di Cristo e questo naturalmente dalla fine del 300, inizio del 400 è logico, lo stesso Dante queste cose le dice. Ma per cui in realtà Donato non ha capito un cazzo, Sgarbi è un grande difensore delle opere d'arte cristiane contro rispetto a me che sono un cinico schifoso e rispetto a me che sono un ateo schifoso e Vittorio è molto più un'autorità culturale che è grande, lui dovrebbe farlo di più, molto di più, perché qua ormai siamo alla fine. Ormai il tempo è quello che è. Ma perché alla fine ma di che cosa? Ma che cazzo che promuove la poligamia? Ma vi rendete conto che cazzo è questa poligamia? Questi di sbarre ci portano qui maomettani. Ma cazzo voglio mandarci a riparare? Ma che c'entra? Lui è contro i maomettani, Vittorio. In maniera molto esaltata. È contro i maomettani, è contro... No, è contro il fatto che noi che abbiamo, io me lo ricordo benissimo, quando ero ragazzo e andavo nei paesi orientali, il mondo musulmano era un mondo onirico, di sogno, il mondo loro. Sì. Il fatto che essi vengano a rompere i coglioni a noi e entrino nel nostro terreno determina una situazione che lui dice in questo modo, ma ha detto parimenti la Fallaci e tanti altri l'ha detta. Il Papa, ha invece una teoria un po' diversa, esatto. Che siccome il Dio è uno, il nostro Dio ha creato anche i musulmani, quindi lui non può mettere la guerra di religione. Ma quello dice che il Papa insulta il Papa Donato spessissimo. Ma anche lì ha ragione rispetto al fatto che il Papa dovrebbe, più che fare un discorso gnoseologico sul creatore del mondo, un discorso invece storico sul fatto che noi abbiamo fatto le crociate, oggi la crociata è la loro. Cioè, dunque tu praticamente sei d'accordo, sei d'accordo sul fatto che ci stiamo praticamente islamizzando. D'altra parte le cifre sono molto forte, Beh, che è un tanto che prendiamo il loro costume, perché loro possono sopraffarci. Noi possiamo essere un ventre molle, possiamo essere deboli. Senti, ma nel rapporto che hanno con le donne, condividi qualcosa? Per esempio la poligamia, la condividi te? No, anche lì la poligamia nobile, santa, e la pratichiamo anche noi in modo mascherato. Sì, senza sposarci però. Hanno, rispetto al sesso, una repressione dell'omosessualità, del tradimento delle donne e della donna che indica la loro minorità. Cioè loro sono minori perché non hanno rispetto degli omosessuali. Quindi basterebbe questo. Quando gli omosessuali fanno queste grandi battaglie e voi li difendete, voi siete i primi nemici del mondo musulmano che neanche concepiscono. E anche il mondo ebraico. Il mondo ebraico e il mondo musulmano non concepiscono l'omosessualità. Beh, però a Tel Aviv e in Israele è la differenza. A Tel Aviv tu puoi fare tutti gli anni, c'è un meraviglioso gay pride, ad esempio. Sì, lo puoi fare a Tel Aviv, ma non lo puoi fare a Rabat, insomma, no? Ecco. Anche se poi a Marrakesh è pieno di froci, diciamo la verità. Sì, appunto. Va bene, ciao Vittorio, grande intesa. Grande... È un eroe. Ma t'ha dato del figlio, ma t'ha dato del figlio di puttana. Sono un figlio di puttana, una testa di cazzo, uno stronzo, lo sono, ma il mondo è pieno di minori teste di cazzo che sono infinitamente più vigliacchi. Occorre combattere contro i vigliacchi. Ciao Vittorio, ciao. Alla fine Parenzo stretto dal duo Sgarbi Donato da Varese. Io sono basito, sono oltremodo basito. Donato sono. Proclamato eroe da Sgarbi. Donato, avanti tutta Donato. Ci sentiamo alla prossima, avanti tutta. Donato, dove sei? Piccardo padre e Piccardo figlio. Ma na spiega perché vogliono avere 5 fighi in casa? Come perché 5? Io quando voglio chiamare di più so dove andare, perché cosa succede? Allora c'è la Bottini che dice avanti porca mia, perché la Bottini sta aspettando questo, no? Probabilmente vuole andare anche lei. Basta, non ne posso più. Ogni volta c'è un dossier alto così. Ma non lo so, c'è un dossier alto così ogni volta contro di noi, creato dalla Boldrini, non ne posso più. Va bene, Boldrini, scusami, sei una brava ragazza, sei un'amica dei cristiani, ed è morta. Bruciani, vai a fanculo, sei un gran testa di cazzo, sei un bastardo dentro, sei un cretino, bastardo razzista che merda, adesso ormai sei pronto a fare il vice di Salvini alla Lega Nord, che cazzo vuoi bastardo che sei altro, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, ma vai a culo, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, ma vai a fare il culo, culo, bastardo che sei Cruciani. Vai, spada di fuoco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Boldrini, scusami, sei una brava ragazza, sei un'amica dei cristiani, ed è morta. Tu sei una pezza di merda, sei, guarda. Ma vai a fanculo, va. Guarda, tu vai avanti ancora così a offendere i muslim, no? Tu vai ancora così a offendere i musulmani. Faced with a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Allora vorrei sentire Sefide da Milano, caro Parenzo, in una serata molto tumultuosa, no? Buonasera. No, che troppo. E c'è scritto iraniana. Ah. Sotto, non è ancora finita, David. Fra poco una grande sorpresa, soprattutto per te. Devo tremare, secondo te? Non sai nulla. Perché vorrei che tu iniziassi a un po' a divertirti. Cioè, anche nella tua vita privata. Allora, ti voglio presentare una persona che ti può iniziare ad alcune cose. Posso garantire che sono abbastanza soddisfatto da quel punto di vista. Vabbè, però. Non so da quale punto di vista. No, ma da tanti punti di vista. Però... Dal punto di vista culinario, come tu sai, a casa mia si mangia bene. Quindi non ho... Sefide. Come si pronuncia? Buonasera. Sì, buonasera. Si pronuncia Sefide. Sì. Sefide, bene. Vai. Io essere muslim, volevo tu dire. Tu essere muslim, bene, essere sì. Muslim che ascolta no. Zanzara, però. Muslim. Sì, esatto, sono muslim perché ascolto la Zanzara. Ho chiamato per dirvi che, insomma, io sono iraniana, sono nata e cresciuta in Iran, quindi conosco benissimo questa religione. E volevo dire altre cose, però poi ho sentito Mustafa prima che aveva chiamato. Niente, volevo dire che lui, se vede le donne in minigonna e si gira, non è perché, insomma, viene turbato, è perché le donne li fanno eccitare. E allora? Volevo dire che i musulmani sono così, gli uomini musulmani sono così, e io personalmente non ne posso più di questi musulmani. e voglio in Italia. Voi in Italia? No, io non sono musulmana, cioè ho chiamato per dire sono muslim solo per dire. Io voglio un'Italia senza musulmani, non ne posso più, non è una religione di pace. Ma e... tu sei iraniana, ma non sei musulmana praticante, non te ne fotti della religione? No, assolutamente no, me ne fotto, esatto. Te ne fotti, bello questa cosa qua, iraniana, libera da tutte queste, da tutta questa rotture di coglioni mentali, la religione, ma ognuno la religione che affolla la mente di cazzate, questa qua, donna libera, iraniana, donna libera, libera, libera da queste cose. E poi è questo Mustafa che diceva l'Islam libera la donna, ma dove... cavolo vive, in che mondo vive? A me lo dici, amica mia. Volevo dire che insomma se ne possono anche andare a casa, a casa loro, insomma io voglio un'Italia senza i musulmani. Un'Italia senza? Casa loro è questa qua. Come? È qui. Casa loro è questa, voglio dirle alla signora. Ma casa loro? Ma attaccala, come che casa adesso loro? Attaccala ma la signora anche se è una donna, attaccala anche se è una donna, abbi coraggio di attaccarla. Ma è anche educata a suo modo, cioè non ha usato brutte parole, non ha, ha usato toni alti, però è una persona anche educata con la quale si può interloquire. E ma poi quello che volevo dire, la cosa che mi preoccupa sono gli italiani che si stanno convertendo all'Islam, è veramente preoccupante. E un'altra cosa, ma tu concepisci una donna italiana che si sposa con un musulmano? Che si sposa con un musulmano, diciamo, praticante, la concepisci una cosa di questo tipo oppure è una follia? Ma è una follia, cioè... Persone addirittura in questi giorni espongono dei cartelli, sto con un musulmano, non c'è nessun problema, eccetera, eccetera. Ma perché secondo me se ne frega. Cioè. Ma vogliono far vedere che insomma vogliono la pace, ma quale pace? Ma non esiste, nell'Islam non esiste la pace, non è la religione della pace. Ciao Sepide, ciao. Intanto, prima di presentarti un personaggio adatto a te, David, noi in queste elezioni di domani... Mi hai invitato il professor Salvatore Zetti? No, elezioni di domani... No, primo turno delle elezioni di domenica abbiamo la nostra figlia di puttana, la nostra candidata, la nostra candidata. Lores, candidata... Ragazzi, anche se non c'è risposta al telefono, io faccio il tipo per lei. Lores da Vicenza, candidata a Tiene. Luciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti pareva che non ci fosse un comunista di merda? Che magari è pieno di case quel coglione di merda e nessuno se ne tiene là? Centri sociali, bruciarli tutti con il nostro... Il dottore è andato a prendere l'aperitivo col champagne, molto freddo. Aspetta, Napal. Ma Napal dove? Su che cosa, Lores? Sui coglioni che hai lì al telefono. Ma no, Napal adesso... tutti e due. Ma no. La nostra figlia di puttana. Forse la mia, non la tua, Parenzo, credo, no? Sicuramente la tua, anche perché come tu sai ho invitato per la settimana prossima in studio a Roma quello che questa Calcutta, poveretta Calcutta, sì, Calcutta. Ecco, lei ce l'aveva, credo che quella ce l'aveva con Calcutta, è vero, credo che ce l'avesse con il signor Calcutta. Allora, settimana prossima il signor Calcutta sarà in studio a Roma. Comunque il quale Calcutta, sentendo queste invettive, ha detto: ma che cosa ha mangiato la signora, giustamente la... Allora, abbiamo qui Jessy Carizzo. Buonasera. Ciao a tutti, come state? Cara Jessica, tempo? Buonasera. 53 anni, ma sei ancora una ragazzina dentro, in testa. No, 52, sono del 65. Vabbè, amica mia, 52 uguale, dai, 52. 52. Già fatti però, 52. Sai che prima o poi io voglio intervistare in realtà non te, tuo marito. Cioè, prima o poi bisogna che io intervisto il marito, perché domani credo che è l'anniversario, fate 28 anni di matrimonio. Bravo, mamma mia, sei veramente... Ma io sono un biografo di tutte le parole. Non ricordava neanche mio marito, pensa un po', e te lo ricordi tu. Parenzo, hai visto qualche film con la signora Jessica Rizzo, tu? Ma forse da ragazzino penso di avere... Ma non ti vergognare, dimmi che ti sei fatto una pippa ogni tanto davanti al film di Jessica Rizzo. No, adesso dai. Questo non lo so, penso da ragazzino comunque... Ne ho fatti tanti, tantissimi. Quante gioie hai dato agli italiani, Jessica? Ma guarda, tantissimo, scusate, ma l'aria condizionata mi ha tolto un po' la voce. Questo non è bello. Sembra una trance, però. Ma questo potrebbe essere invece divertente. gente. Allora, che dicevi? Insomma, hai dato gioia a un sacco di italiani. Io, Jessica Rizzo, quante persone che ci stanno ascoltando adesso si sono fatti una sega davanti a un film di Jessica Rizzo? Beh, per dirla in maniera, ma no, in maniera anche comprensibile a tutti. Quanti si sono masturbati, lo dico in maniera parenziana, e quanti hanno usato onanismo, questo è forse più parenziano, di fronte, no? Di fronte a un film di Jessica, no? Jessica, quante persone? Ha fatto del bene a tante persone, eh? Eh beh, sì, alla fine sì, è vero. Certo, si può anche esagerare poi in quel campo. Comunque, certo. domani, 28 anni di matrimonio. Prima o poi devo intervistare tuo marito. Cosa significa stare 28 anni con Jessica Rizzo? Cioè, questa è la cosa più incredibile. 28 anni siamo durati perché siamo una coppia trasgressiva. Ma sì, siamo dai, una coppia che normalmente, se no, non... Se ci fossero gelosie tra di noi non sarebbe durata come tante altre coppie. È chiaro, non è che poi per forza bisogna fare quello che fate voi per stare insieme 28 anni, no? Ecco, cioè, appunto, esatto, questo volevo. Questo, esatto. Perché altrimenti... Io dico che si campa una volta sola, si vive una volta sola e quindi. Ma con quanti uomini fare sei? Quello che uno certo, si sente. Con quanti uomini hai fatto un calco di con quanti uomini sei stata? No, non me lo ricordo più. Non me lo ricordo tra sette e vita privata. Guarda, sentimentalmente con uno, però poi con tanti. Beh, sessualmente non me li ricordo. Perché senti, ma hai mai tradito tuo marito al di là della questione dei film porno? Cioè, ti sei mai fatto una bella trombata con qualcuno? Con qualcuno? Beh, così? Sì, certo. Assolutamente sì. Lui è giusto dirlo alla vigilia dell'anniversario. E lui lo sa? Ma certo che lo sa, anzi si eccitava a vedermi. Vedermi che godevo. No, mi chiedo scusa, però scusate. Questo è molto buono, solo questo. Secondo, solo per capire. Sì. Io accetto tutto, va benissimo, tutto è meraviglioso. E non fate passare per normale, però, il fatto che nelle coppie tradizionalmente il marito adora e si eccita pure all'idea che la propria moglie accompagna. Ma assolutamente. Non ditemi che è normale. Cioè, ma prima però, del lavoro, cara no, perché ci sono molti uomini maschilisti che vorrebbero solo loro farlo. Brava. E la propria moglie a casa. Brava. Mentre invece non funziona così, perché no. O si ha la parità dei diritti, allora si è entrambi. Esatto. Cioè, Marco, anche prima di come dire, di intraprendere insieme a te questa carriera, per lui molto più breve, diciamo, nel porno, poi è diventato tuo socio in altri affari, nel locale che gestite, dove dovrebbe andare Parenzo. Io per questo ti ho chiamato, che vorrei spingerti a portare Parenzo, a far visitare il tuo locale a Parenzo. Sarebbe non molto interessante. Come no, vi invito, come no, certo, no, ma io vengo autonomamente, io Atlantis a Roma, io vengo autonomamente. Devi sapere, la signora Jessica Rizzo c'ha un club privé vicino Roma, dove si praticano delle cose che tu dovresti conoscere da vicino, Parenzo, anche per un'indagine sociologica. Dovresti portare la tua consorte almeno a vedere una volta, a vedere scambismo, gang, eccetera eccetera. Parenzo, tutto, ti può interessare tutto, questa cosa? Lo scambismo, ma ci sono anche coppie di curiosi che vengono soltanto a guardare, vedere, oppure coppie esibizioniste che magari giocano tra di loro, arrivano allo scambio, però mi piace farsi guardare. Capito, David? No, ho capito tutto, ma io non voglio, mi chiedo soltanto la gentilezza, siccome sono qui con il professor Flores d'Arcais e con Zagrebelsky, io pensavo che la signora Rizzo si occupasse anche, come dire, della legge elettorale. Esatto. Ora, io quanto le interessa la legge elettorale? Zagrebelsky mi fa notare che non è elegante, direbbe a Torino, mi ha appena detto, ma lei crede, lei dice, lei davvero? Cioè, quando la signora Rizzo ha detto che è come dire, importante farsi vedere montate, no? Esattamente così, però insomma, il fatto che venga presa anche da altri uomini, il professore ha detto, lei dice, ecco, questo di Torino non l'ha presa benissimo, ecco. Ma perché non vai però in visita in questo locale tu? Ma lei dice, ma lei crede? Certo, brava, prima vedere e giudicare, prima vedere e poi giudicare. Prima di giudicare bisogna vedere. Ma ha ragione perché... Jessica, dai, su, hai ragione. Allora, Jessica. Ci sono tanti tradimenti, non ci sarebbero più se la coppia fosse più unita anche nelle proprie fantasie. Certo, ma importante. Perché tuo marito, per esempio, godeva quando tu ti scopavi qualcun altro. Ancora? No? Sì. Ma anch'io però godevo quando lui giocava con altri. Ma questo al di là... Lei dice! Questo al di là del lavoro. Provare per credere. Questo al di là del lavoro, dico. Poi è diventato anche un lavoro, immagino, no? Certo, prima abbiamo iniziato per gioco e poi dopo... diventato a me sembra tutta una grande porcheria. Allora devi sapere che la signora Rizzo ha detto di recente, ma a questo punto non so neanche se chiama la signora, ma come no. Mi sembra una porcheria, dai, ma che c'è una porcheria, ma perché il sesso non è mai una porcheria, no, ma il sesso no di per sé, ma questa idea di insomma, comunque se vi piace così, ragazzi. Ma c'è una cosa che non hai fatto nella tua vita, Jessica, sessualmente c'è una cosa che non hai fatto? Beh, diciamo sessualmente poche cose. Il sadomaso non mi piace. Il sadomaso, ecco, quello manco a me mi piace il sadomaso, devo dire la verità, la sofferenza nel sesso non mi piace. No, non mi piace. E lo squirting lo pratichi? Ecco. Allora, lo squirting. Sì, apriamo questa parentesi. Ecco, apriamo questa parentesi perché io, sì, con tanti uomini che ho avuto, sì, non erano mai stati capaci a farmi squirtare. Sì. Oh, quando è venuto problema, un cliente, ma sono bravi, mi ha detto: guarda, dice Jessica, oggi ti voglio far squirtare. Io mi sono messo a ridere. Io ho detto: fino a 40 anni sì, nessuno è stato capace a farmi squirtare. Dico: adesso arrivi tu. Sì. No? E lui mi ha detto: guarda, che tutte le donne possono squirtare, solo che devono trovare l'uomo capace. Lo vuoi spiegare a Zagrebeschi, Parenzo, in questo momento? Rivelazione. Davvero? Ma è un sistema elettorale, mi ha detto. È un sistema elettorale, con movimenti sussultori e ondulatori. Senti, ma come alla fine ce l'ha fatta? Sì, come no, ma dunque, il materasso. Dunque ce l'ha... Infatti sono rimasta stupita, perché fino a 40 anni nessuno era stato capace di farmi squistare. E invece poi l'ha fatto. Che lei questa comunicazione l'abbia fatta a borse chiuse, signora. Però scusi, signora Rizzo, alla fine, dunque, solamente perché è indotta da tuo marito, ma in realtà poi naturalmente non lo fai, diciamo la verità. No, anche se non c'è lui, qual è il problema? Cioè, noi siamo una coppia aperta. No, ma dico... Questo si era capito, signora. No, però Jessica, scusami, se non c'è l'intervento dell'uomo, da sola non squirti, diciamola tutta. Certo. Però non è stato capace neanche mio marito. Come non è stato capace una persona, un cliente diverso. Ah, ma un'altra persona addirittura. Un'altra persona, sì, un'altra persona, bravissimo. Ma poi ci sono donne che squirtano con i rapporti sessuali. Sì. Io per esempio no, io con la mano. Masturbazione. Con la mano, beh certo, non c'è dubbio. Questo è importante, ecco, il tecnicismo, il dettaglio, Parenzo, è importante in queste cose. No, ma infatti adesso che ho saputo questo, mi si svolta la serata completamente. Ma assolutamente, se tu cominci a parlare di questa cosa al tavolo stasera dove andrai tra gli imprenditori lì, guarda che avrai grande successo. Ma non la pratica con la moglie. Ma scusami adesso, Jessica, ti deve raccontare una cosa. Jessica, nel locale di Jessica transitano politici, giusto Jessica? Anche politici. Si possono fare nomi? No, naturalmente non si possono fare nomi. Come... Politici no. Imprenditori sicuramente, imprenditori. Sì, beh, certo. Pieno. Cioè la maggior parte sono imprenditori e probabilmente pure magari gente di Confindustria, non lo possiamo sapere, Parenzo, no? Che va a locale la signora Rizzo. Io non credo. Ma vai, non credo, io credo. Come assolutamente. Poi io ci sono sicuramente, proprio. Ci sono preti? Qualche volta sì, c'è stato anche qualche prete, sì. Cioè, capito? Preti. Calciatori non ne parliamo, naturalmente. Calciatori sì, serie. Ma io non li conosco. Serie A, B, una volta ho detto a un calciatore che l'avevano riconosciuto tutti. Sì. E io gli ho detto: ciao, come ti chiami? Lui mi ha detto nome e cognome, poi mi ha detto: ah, di che ti occupi? Questo mi ha guardato. La signora non Jessica calcio, Rizzo, quindi non li conosco, però vengono. Allora, calciatori. Cosa finale, Parenzo, sì. Lo accetti questo invito della signora Rizzo per una visita? Magari puoi portare le tue telecamere, le telecamere della trasmissione che fai per una... No, andiamo a far squistare. Guardi, signora, guardi, ho tante mostre, musei da andare a vedere prima di venire nel suo, per carità, non, nulla contro il suo locale. Questa è una cosa artistica, Artistica. Assolutamente. Vabbè, magari vedo, adesso sento se il professor Zagrebelski ha voglia di venire con me in quel locale lì. Così. Senti, ma quanto usano il Viagra oggi le persone, secondo te? Tantissimo? Senza Viagra? Purtroppo no, sì, senza, ragazzi di oggi usano senza Viagra non Viagra. Si scopa, senza Viagra non si scopa. Perché ormai tra l'alcol, poi a volte usano anche delle droghe così. Cocaina, purtroppo eccetera. Non c'è più l'uomo vero di una volta. Vabbè. L'uomo che... Appena lo toccavi, sì, subito si inalberava. Si inalberava. Sì, sì, sì. Beh, certo. Ciao, mio Jessica. Marito prima a 20 anni, sì. 6-7 volte al giorno. Adesso parlo con dei ragazzi, gli dico: ma voi ragazzi, almeno 6-7 volte al giorno. Dice: ma che siamo extraterrestri? No, ma questo è vero. Pure io 6-7 volte al giorno non ce la farei mai. Ciao, Jessica. Presto. Ciao. Ciao. Ragazzi. Ciao.